Luca? Ah, tu sei Luca Flipper, un bel Luca. Beh, fino a poco fa c'era Claudio, c'era Luca. Oh, un po' di calma sempre di giù. Bisogna farsi vedere, bisogna fare da bravo in questi giorni. Vale, stiamo scendendo, con che apparecchio era? Che strano. Cosa stavo dicendo, Luca? Non è che tu per caso dei casi abbia un micun, uno spinotto grosso che entra per un riduttore praticamente, che entra nell'apparecchio grosso e c'è l'attacco fino da terra a mono. E come cuffie? È mono. Ma c'è un ostello di cuffie, l'apparato è mono. Non mi sa che l'unica è tagliare il filo, prenderci uno spinotto mono e buonanotte. Mira che sta facendo, non ne ha nessuno, tranne che fusava, adesso devo provare la fusava, se ce li ha, via, alla DBC, da Ventioni, eccetera, eccetera. Sì, ce li ha, che è attacco piccolo, eccetera, grosso, però è mono e mono, capito, non è stereo mono, è mono mono. Infatti me l'ha dato, ma non va bene, non va bene. Ti dica, a voi di altro non fa, da Luca non fa, ma aspetta, no, guardi, no, però per dire ci salgo. Voglio vedere cosa funziona, no? Luca, dai, non ti rispondo più in base a questo, perché poi mi arrivo che se briemo. Io parlo in una maniera, tu parli in un'altra, Luca dice una cosa e io ne dico un'altra. Quello che dice Luca non è per niente affidabile, punto. Cappa, non so cosa dirti allora. Non so cosa dirti Claudio, non so, vediamo dopo quando sta Natalino, chi è tra Mario, vediamo se c'è la differenza, allora. Ma entro io. Anto, guarda a vedere, tu ti sei in plastica, guarda così, Anto, 1, 2, 3. Ah così, cambia qualcosa. Ma ti sbatto io c'ho più 20. 10 punti, Claudio. Torra, non rispondo più no, io guardo il mio, non quello che dice Antonio, quello che dice Luca, quello che dice Pippo Franco, il mio guardo io. Io ho l'antenna sul tetto, qua non rilevo nessuna differenza. Rilevo solo i 5 punti che tu dai, il tuo segnale qua è 9 più 30. Quando attacchi e quando usi il mobicon, la stessa cosa. Quello per me, per essere un lineare devi andare da 9.30 a 9.40 per me. Io non so cosa dirti, forse mi sono spiegato male. Io non saprei cosa dirti se mi volete ascoltare. Cioè qua Luca tu arriva a 9 più 30, ok, col mobicon, che c'ha due potenze. Col Midland arriva sempre 9 più 30, perché c'ha due potenze, no? 5 watt e poi attacca sempre 9 più 30. Cosa leggi lì? Che cambia qualcosa? Qua per me non cambia niente. Allora ti spiego perché. Perché siccome avendo una ricezione molto più ampia, chiaramente determinati parametri che sono molto piccoli, non li nozzi e non li potrei mai notare. Io invece, regalo dicevo basso, perché lo dicevo basso per essere vicino a casa, mi basta, la piccolezza è nato, capito? Perché non avendo una ricezione ampia come la tua, è nato. Non è che io, perché sono anche la di plastica, dicevo male. Sì, io dicevo, appunto perché dicevo male che posso dare la variazione di segnale. Tu invece dicevi bene, perché male non varia niente, se varia di un punto, ovviamente lo voglio non smettere. Non varia proprio niente, cioè il suo segnale qua è 9 più 30, 9 più 30 rimane, hai capito tu? Hai capito? E poi da 5 watt, cioè lui usa 10 watt con mobico, ne usa 10 con lineare, non capisco come fai tu a notare questa differenza. Vabbè, voi la notate, io non la noto, per me la mia apparecchiatura è seria, poi non so cosa dirvi, io non noto niente, Luca è 9 più 30, 9 più 30 rimane, con o senza amplificatore. Claudio, si può la prenotare anche tu, tu invece io dicevelo con la massa, va, dicevelo con la massa antenna, con il solo, ogni che ti pare ti piace, se la prenotare la rossi. Ma quello va in trasmissione, a chi la deve far vedere questa differenza, se tu ti pare, noi moduliamo con le mantove, a te che lo senti 9 e vuoi arrivare 9.10, allora io quanto ti sto arrivando lì, Santiago 7, Santiago 1, quanto ti sto arrivando lì io? Che differenza nutti, tu se ti faccio due passaggi da 10 watt a 100 watt, che differenza nutti, la nutti? Questo come adesso sei quasi più 20, tu non lo so da 5 watt e 10 watt che differenza no, però non la faccio io quella differenza, non la faccio perché si vede, però ripeto, io la differenza la noto perché? Perché lo dicevo basso, però sono stato 9 più 60, 9 più 50, non l'avrei non fatto, è normale. Anto, forse non mi sono spiegato neanche con te, anche io la noto, se lui usa il Midland e usa 5 watt, poi inserisce, va da 9,25 a 9 più 30, anche io la noto, ma il segnale di Luca è sempre uguale, a me mi arriva sempre 9 più 30, cioè rendo l'idea cosa ti voglio dire, il suo segnale è quello mi, non è che va fuori del 9 più 30, quello ti sto dicendo io. Vabbè, io quello non lo so, lui mi ha chiesto, una volta detto, il segnale tra un passaggio e l'altro, e mi ha detto, sì, varia, però no, lui non ha chiesto se varia rispetto a ieri o avanti ieri, perché io quello non posso sapere, non è che mi sono registrato i segnali di tutti, no? Comunque, aspettate, io ho fatto una prova per vedere se funziona, non è che... Poi si urba l'antenna di plastica, uno ve la digincono, ma non cambia niente, è quello. Sto usando Claudio il Midland, il mobico è spento, cioè è acceso, però è da una parte. E non so, provando per vedere un po' tutto qua, non è che... Ascolta, la differenza non si nota perché tu già il segnale mio è forte, a quanto pare. Poi attaccando questo cavolo di pacchetto di sigarette non non cambia niente, tutto qua. Dipende anche dalle zone, per cui se da te può valere di niente, da me può valere di 2, da quello può valere di 3, dipende. prende, cosa riesce a scavalcare il segnale che mi sta dando, però io cosa sto usando non lo gioco. Ma quello che sono, voglio sapere, non sono fatti che mi riguardano, però ho capito che un amplificatore non ha 10 watt, 20 watt, è differente, non mi fa salire oltre 9 più 30, capito? Quello che ho io, che è un B300 di macchina, che io avevo pilotato con un alimentatore da 40 ampere, se io lo attacco all'inuite che c'ha 5 watt, da 5 watt a 150 watt la differenza si vede, e lui ha vista qualche volta, capito? Ma se io dovessi attaccare un altro che non ha 10 watt, non serve a nulla. Sì, ma non riesce a capire che l'altro amplificatore è. Io non ho pensato che io sono un amplificatore da 10 watt. Differenza a te. Ok, da Menno. Sì, sempre Santiago 9, però quando parli la modulazione sale fino a 9,5, sia in un passaggio sia nell'altro. Luca! Via! Questo cos'è adesso? Il fatto che è attaccato? K. Aspetta il piattino, rimane attaccato. No, rimane attaccato il piattino, vai, stacca. Ecco, già attaccato. Così non arrivi neanche a otto attenuato, vai. Aspetta. Guarda, vedi un po'. Vabbè, la velocità arriva quasi a 9,5 fra. Io non ho fatto la differenza. Io non ti dico, io non ho fatto niente, cioè... nelle condizioni in cui sono è come se lo stessi dicendo a lui in lontananza, quindi è come se io fossi praticamente rispetto a te 100 km più lontano, ne ho 100 km di strada, in mia mano fai 50, quindi chiaramente la noto perché c'è la ricezione bassa, sicuramente tu siccome hai molta ricezione non riesci a notare la differenza, però nelle persone che gli arrivano proprio, che lui, alle quali lui arriva molto basso, la differenza la notano perché la noto io. Non so, mi raccomando, non ho notato qua, io non noto niente. Non so cosa dirti, non noto assolutamente niente. 9,33 e 9,30 rimane. Lo attenuo, l'attenuato prendo il cambio, da 25 a 30, abbattono quello, 130 è per me. Quindi non so cosa dirti. A questo punto comunque io ripeto, non era neanche a 8, siamo passato quasi a 9,5, quindi non è male. Praticamente ho fatto un punto, ho detto così. Come? Cioè volevo dire, da te a 1,10 e 1,20 sono 10 punti. Non è che siamo tutti 10 punti, Vabbè, all'incirca, dai. Yeah. quel punto non so niente, no. Io però ripeto, non so cosa sta usando, non so cosa c'ha, non so cosa non ha, e quindi io, se lui mi dice a me, cambia qualcosa da così a così, e ti dico sì cambia perché il cambiamento lo vedo. Però poi, in lontananza, in vicinanza, io sono 70, quindi i controlli non è che le posso dare, però da me con questa antenna la differenza la notto, anche se è poca però si nota. Ma tu? C'è scritto booster CTE 735. 735, ma cos'è? Piccolino nero, rettangolare. È rettangolare, sì, però è grigio, con la mascherina nera. Non c'ha niente, no. C'è un tasto on e off, ma senza spia. Allucinante, perché ha cioè non avrebbe variato niente, però è passato praticamente da neanche 9 più 20, cioè una tacchettina è meno del 20, a quasi 9 più 30 di modulazione. Ma che cosa? Cioè, sta intermodulando, però. Non è stato fatto, sta intermodulando. Esatto, sì, sta intermodulando. Non è una cosa allucinante, ha dei picchi che sembra come se fosse una KF. Oh. passa poi la velocità di sopra. Non lo sai che le spiegami l'apparecchio, ma anche l'interruttore conosce. Ah, mi conosci il signore. L'interruttore la stava prendendo, conosce anche l'interruttore adesso là. Fino a 300 watt in giù fanno tutti cagare. No, no. casa al coso, e con l'amplificatore arrivava a 9.30, con l'altra radio arrivava a 9.30, con i picchi positivi a 9.32, tutto lì. Dice, per essere così e così, tanto vale tenere quello là normale senza avere giocatori di mezzo piedi. Giusto, oltre giocatori nei problemi e problemini. Il getto tuo quanto tira fuori invece, Mario? Il mio getto, per quello che ne so io, dovrebbe essere intorno ai 600. Ma c'è l'alimentatore interno quello? Beh, quindi pesa pure un po' garezzo, non è così? Vabbè, vieni. Gianni, tutto nel più 2 c'è, quello celeste che avevamo un tempo, 35 euro compra subito. Mario, ci stai andando a controllare? È vero, per farti passare la rabbia? Sì, intanto beh, si va presto, non me la sono tenuta. Dimmi, vabbè, lasciamo una sotto. Stavo dicendo, quel rose che mi ha proposto Marco stamattina è identico al mio. L'ho visualizzato su internet e ho controllato tutte le caratteristiche, addirittura c'è la schema elettrica, tutto quanto è preciso, identico a quello che c'ho io. Uguale, non siamo una virgola. Te l'ho detto che sono gemelli. Addirittura c'è anche lo schema elettrico, lo schema blu e tutto quanto, infatti me lo voglio scaricare così me lo tengo per il mio. Vabbè. KK. Vabbè, dai, andiamo di un ascolto, vi seguo, ma non riprendo, stavo dicendo a Gianni questo affare. 35 euro è buono, cavolo, se è buono. Compra subito. Ehi, compra subito, immediatamente, basta il clicco e già comprato. Tunnel più 2, microfono, e ci vedo se è nuovo. Controlla la banda prima. Così vediamo di chi è. Controlla la banda, è tutto qua. Ehi, quello è bello, c'è poco pompa col microfono. Sì, io lo so, ce l'avevo lui io. Sì, ne ho già avuto due io, dici. Perfetto. Questo è cosa di? Aspetta, te lo dico. Quando esce? L'ho visto la lezione a Pignano, provincia. Ora di Mattore questo. Il W6 ATN, 341 per il vecchio positivo. Contatto, prendiamo subito. Cosa stavo dicendo? Che come si sentiva tanto positivo quando respirava, quando stavi parlando? Maria. Già, la fotografia si legge M più 2 U. La griglia è bella celeste, però è sfumato, no? Si è vero molto, Non un gioco. Il colore della griglia c'è, bello celeste, la scritta c'è, M più 2, U, basta, bu. Poi non si vede altro. Dove essere griglia celeste con il fino celeste? Sì, sì, tasto griglia celeste, il tasto celeste, la scritta celeste e il filo celeste. In buone condizioni, visionare bene le foto delle parti plastiche. E c'è vedere. E allora è stato toccato per la modifica della batteria. Allora, qua ho scritto miscelire se è funzionante in perfette condizioni. Mi ha risposto immediatamente. Ciao Claudio, sono Alessio. Penso di sì, ma non l'ho testato, non ho la batteria da 7 volt. Saluti Alessio. Ce l'ho io, Claudio. Boh, che dici? Penso che vada bene, cosa ne so, spinotto ce n'è. Non si vede. No, so, cosa critica. Io le batterie ce le ho, non c'è problema. Gianni! Penso che dovrebbe anche fargli una domanda, ma non è che c'è un trofogliero come gli altri, no? Quello è che adesso tieni i capi tradizionalmente temi a farlo. Non so cosa dire. Ma sì, cosa vuoi che dica? Magari non con la barbica che ti sono dare quello lì, vabbè. Vabbè, l'apparecchio di quello lì non mi ha detto che dovrebbe... non lo so. cazzo, e poi c'è il tanno più tre, già lo sai, quindi no, a un certo punto non mi serve. Io sto per avello, 35 euro, non lo so, adesso vediamo. Faccio un altro giro, intanto lo metto sui preferiti, questo dopo ci rifaccio. Quando ce ne faccio vai a nel bottino. Vabbè, adesso faccio un giro, vabbè, dai. Riprendi Roberto, ma Luca non c'è più, fate girare, ragazzi, sono ancora che sto ascoltando. Caffa Luca riprendi. Ne è matto, siamo io e tu, Antonio, poi che è entrato Roberto Quadrato, avanti. Vabbè, riprendete voi, vi ascolto, io adesso, mi sto ascoltando. Quando scade quella roba del Claudio? No, compra subito. Compra subito, tu, 75 euro. È un affare, provaci, sperando, visto che è un radioamatore che c'ha i dati, magari lo puoi contattare telefonicamente. Come ti arrivo di segnale da te? Da me? Da già. Dalla Roberto. Media. Sì. Guarda, non ti posso dare un riferimento, comunque è sempre ottimo, almeno a livello acustico è eccezionale come prima, è sempre bene arrivare tu. La radio la sento migliore, più fedele io. Ti ho fissato in tutto. No, vabbè, il discorso di amplificata è molto più nitida rispetto a prima, era buona anche prima, però adesso leggermente più alta la sento e più naturale, diciamo, da come se davvero è molto più naturale. Va bene, va bene. Sì, perché davvero a volte non fa così calmo, è più succuricato e quindi cambia. Sì, sì, sicuramente è migliorata, dai. Vabbè. Ma io a te come amico. E da me avrebbe sempre bene, comunque questa qui la radio è più chiara e più amplificata. Ma tu le hai sentito che usano noi? Io? No. Ah no, sempre da la bus. Papà. Bene, ma era. No, pensavo che si sia dato con l'M300. No. Ok, non ti piace questa modulazione? Sì, che mi piace. Perché me lo vuoi cambiare? Ma certo, io siccome sto chiedendo se stavo aggiustando, stavo mettendo tutto quello là, volevo sapere se la quella è tutto lì. Ah, cappa cappa. Allora, viene nella. E già hai ho sentito a Luigi, che l'avete interrotto, c'è ancora Luigi? Già è quello lì, non è modulazione largo, questo. Ora, perché mi dice di no? Se ci sto dicendo che uso l'argus, non vado a dire questo o quello, se avevo attaccato l'altro ti avrei detto attaccato l'altro, tutto lì. Assomiglia molto Mario, scusa, ma io qua registro più o meno la stessa timbrica, ecco perché già mi ti ha fatto la stessa domanda, capito? Vabbè, non c'è problema. No, ho messo di nuovo che le cose che gli avevo dato gli amplificatori per pulirmi gli arsi, visto che ci avete le orecchie fine, è molto acute. Ditemi se fa sempre quel rumore quando schiaccia la portata e quando la molla, se fa sempre quel clicchi che faceva prima. Questo qui è quell'amplificato della Intec a retina, senti? Grazie. sedia, mi sveglio più comodo così, di giorno magari mi metto seduto nella sedia, ma non è che ci sia più di tanto. E ciò per il positivo, Luca, ripreso hai? E allora, ogni tanto sparisci, te l'ho chiamato 5-6 volte, un po' con Claudio, un po' con Gianni, sparisci così tu, allora, sembri quello delle mille sorprese. No, allora, questi me te lo stai controllando sempre. Mario, Luca Flipper. Tappa di positivo, non lo ascolti? Vai Luca per Roberto, perché forse non ci ascolta. Marco? Mario? E ti ha salutato, ma non lo senti? Non ho assoluto, niente. L'altro giorno arrivava bene, come vai adesso? Non lo sento. Non lo so, adesso glielo chiediamo. Luca, ha detto Roberto che non ci sente per niente, mentre che l'altra volta ti sentiva meglio. Cioè ti sentiva meglio, ti sentiva. Oh Mario. Dimmi qua. Ma a te può interessare sempre il C80? Papà. Va bene. L'hai visto quello che c'è, Luca? Ce l'ho io sotto controllo, lo sto seguendo, ce l'ho sui preferiti. Mancano 3 giorni, 17 ore però, e siamo a 203 euro. Se rimane costante così ci siamo forse. Bella radio, di un radioamatore, molto molto bella. Molto bella. Corriere Espresso, non c'è neanche né postazione delle 3, né postazione delle 2, Corriere Espresso, direttamente. E poi questo è un negoziante, non solo radio. Il negozio chiamo di communication, capito? Così allora io prendo una questione di anzianità, ma la meccanica e l'elettronica la possono far gareggiare anche con il miglior apparato in commercio, potente e facile da usare, includono la copia del manuale con tutti gli schemi elettrici e con il microfono Shure 444. Ho avuto rapporti di modulazione eccellenti da parte di alcuni audiofili utilizzando proprio il TSC80. Qui c'è anche il microfono a tavolo, lo Shure 444, l'ho usato io, è un bel microfono, c'è una capsula dinamica molto molto potente. Vabbè, teniamolo sotto controllo comunque. Ah, lo so quanto ci vale, io non c'è problema. Lo seguo e vedo un po'. Se arriva la cifra che io dico che si vale, si prende, altrimenti se lo tiene, se ne fotte. Comunque, almeno hai a che fare con persone serie. Anche questo è un radioamatore, il capotto TLZ, quindi. Ho già visto su corrierz.com, sono persone serie, abbiamo tutti i dati che servono. SVB con tanto di garanzia, quindi addirittura questo dà anche il microfono al tavolo, perciò vabbè, lo seguiamo, dai, fate girare Gianni di primi. Mi interessava sapere Mario se aveva ancora voglia di fare. Ok, avanti Gianni, rimetti per Luca, vediamo se riprende o se è in ascolto, se è caduto la serie. Io sono in ascolto, avanti. Dimmi. Il 144, non è il 144, il 180 è come il 140, c'è la scheda dei 6 metri, le manca la scheda dei 6 metri. Attenzione, guardate il negozio, non solo radio, guardate il mio negozio, questo c'è un negozio, leggete i miei feedback, qui sto leggendo, ottimo venditore, affidabile, pacco perfetto e veloce, molto consigliato, spedizione regolare, oggetto corrispondente l'iscritto, transazione ok, positivo al 100%, l'articolo che mi ha mandato è in ottimo stato, ottima transazione, cordialità, saluti, venditore veloce, affidabile, tutto ok, grazie, è assolutamente puntuale, tutto ok, grazie, è ottimo, grazie, venne a Mari, minchia, è un elevatore, non può fuori te, ce ne sono 3 pagine. Mamma mia, gara, mai visto una cosa. Power, non solo radio. I metodi di pagamento accettati sono ricarica PostePay, bonifico bancario, PayPal e contanti. Ah, allora mandamelo in contrassegno e si è a posto. Sito, valore limitando l'importo, bimba, qua, domande. Vabbè, domande e frequenti, vabbè, aspettate un attimo. Aspetta, tornando indietro che mi erano in 3 pagine di. Questo vado a vedermi il suo sito adesso, non solo radio. Aspetta che sono a guardare. No, è come ha fatto la fotografia, la sfumatura in rosso, capito? No, non è niente, non è niente. Io preferisco. Preferito il metodo di pagamento con carta PostePay oppure bonifico bancario. Vabbè, mo vediamo, vabbè dai, fate girare. Dimenticato la borsa in negozio. Affanculo. Basta portarla. Intanto blocchi i negozi. Sai, una volta che l'ho già fissata, adesso lo so, oggi sto provando un attimino. Siamo i giochi avvisati, 40, sì. Bella bella. 40 pieno, sì. A 9.20, a 9.40 vai. Andrà bene, ma io già ti darò un caso, bravo, già gestito. Ciao. Ciao, ciao, saluto. Qui si sente tanto il rumore del relay. Ah, si sente? E ma ne sto mandando pucchi. Sì, va bene lo stesso, pucchi o non pucchi. 9.40, sì. Segnale Roberto Quadrato, c'hai. Amico. Allora, avvero io. Andiamo già che giù, diceva quello. Va bene, va bene. Bel lavoro hai fatto, veramente bello. Adesso noi siamo a Carrucci, siamo più figarosi. Ah, cioè, finalmente lo vedo. Lo vedo e lo sento che va. Luca, sistemate il PC. A te sto dicendo io. Sistemate il PC. Non va bene no, sta scantonando. No, a parte che la sciogli, se non è già sciolta. Poi, riprendi già. Già inizia a fare altro, beh, ci riabbasso un po' là. Così dovrei essere meno bruttenta. Quando ce l'avevo qualche anno in meno, adesso notti più tranquille, là. Non bisogna essere più pressa. Sì, che barracca, però c'è piccolino, c'è piccolino. Ma se non ti sollevi un pochettino ti sentiamo, buonasera. Ma vi ho sentito, dai, ho letto. E che Paoletto, però la bianca? Forse sì, sì. Ciao Paoletto. Cappa gaffa. E dove siamo? Fattano. Cappa gaffa. Mi ascolti, vi ha fattano, Paoletto. Sì, esagerato. Piccolino mi fa radio. Bella. Ehi, piccola intende perché stai parlando piano. Ciao Paolo. Anche a me mi sente piccolino del radio, sto parlando piano. No, no, no. Microfono normale, già va bene. Fino alla prossima settimana, fino a quando non ci danno il via libera, questa è la mia modulazione. Quando mi sentite tutto ok, vuol dire che c'è via libera. Hanno scoperchiato la tettoia. No, però io non lo sento il caporetto, come mai? Ole, non ti ascolta Mario. Dopo qua, quando Paoletto sta scendendo dalla parte in basso, facciamo le prove. Sì, puoi farle anche quando sta salendo le prove. Già se ne accorge il Paoletto, ce l'ha davanti la radio intanto. E a vedere, deve trovare una radio, a vedere come lo senti. Ma dove lo senti? La barra pesante, dove c'è lo stadio. Ciao. Ho detto, dove la senti la barra pesante, dove c'è lo stadio. Ah, che ha pagato. Perché l'ho visto parcheggiare lì in sotto. Ehi, è scritto Paolo. Io ho detto che c'era scritto Paolo. Ma boh, se non lo dici tu, magari deve qualche parcheggiato del giorno, non lo so. Accidenti, perché non si fatti vinchi, no? Ma fai la sì. Ma stanno a dover recuperare i soldi. E adesso del caso, dopo 5 anni del caso. Avanti, Mario. Mario, non c'è, Claudio. Io ci sono, ci sono. Datemi il tempo un attimino. È che volevo sempre capire, vedere come mai non riesco ad ascoltarlo, perché di solito lo ascolto forte e chiaro a Paoletto. Magari lui a me mi sente, adesso glielo chiedo e poi credo mai, già, se mi risponde mi fai sapere. Comunque, salutoni Paoletto. Niente, ben entrato nella grande ruota. E ho capito che stai dando la 131, adesso ti ho ascoltato un po'. Però prima non ti sentivo per niente. Tutti ti avevano salutato, tranne che io, perché non ti ascoltavo. Tutto qua. Comunque, salutoni. Riprendi i danni. Oh, io ascolto molto bene. Poi vabbè, io li passaggio così tutto. quindi sto per farmi un carico. Sì, siamo andati lì letto, io purtroppo detto intorno alle 6:30. Però diciamo che alle 9 ero giù, sono sceso abbastanza tranquillo, ogni tanto facciamo chiamata per vedere se ti sentivo, invece niente, addirittura sei partito 3 ore dopo di me. Fare. Ma come se no te vedi, anzi io ho hai pienamente ragione, no, io purtroppo diciamo che dovevo arrivare molto presto, perché io avevo calcolato che partendo alle 6:30, mettendoci 2 ore e mezza che mi sto allargando, perché di solito io quelli lo faccio volare, perché io non è che gli chiedo il cuore, ma io gli chiedo l'anima addirittura a quel camioncino, è vero, è così che niente, invece sono arrivato oltre le 9:30 perché era talmente la bufera che c'era che non riuscivo a camminare, è vero. Poi abbiamo perso del tempo di caricare, coprire tutto, perché sennò la pioggia, le macchine della climatizzazione si rovinavano. Niente, non è che puoi portare dal cliente la mondezza, capito? Senza confessione, senza questo, senza quello. E allora l'ho dovuto coprire tutto bene. Da lì scendere a Guspini, sciogliere nuovamente tutto per caricare altre 5 pallet di diverse, più un fascione di tubi di politrene, di quelli da saldare, e niente, poi ricoprire tutto, rilegare tutto e partire. Così che mi ha portato via un bel tempo, anche perché stava sempre piovendo, infatti per caricare me ne sono andato sotto la tettuia lì e niente, ho dovuto fare tutto sotto la tettuia perché troppo vento e più c'era anche la pioggia. Positivo, vedi, tu per noi puoi essere necessario da Mario, perché avendo una macchinetta piccola non ti rompo la tettuia. Per noi con questi mezzi pesanti, quando ti fermano, non ti sono il tachigrafo e vedono che sei andato fuori, per noi sono dolori, sono dolori nel vero senso della parola. Ma lunedì diciamo che io come posto di blocco non è che ne abbia trovato, li ho trovati solamente lì quando sono uscito da Guspini, che sono uscito lì a come si chiama, che forse l'avrai visto anche tu rientrando, no, ma se tu sei rientrato così tardi non credo che l'abbi vista lì a come si chiama, a Urtu. C'è un nome così comunque, per andare a San Nicolo d'Arciano e via dicendo. Da quell'incrocio lì c'era un camion dell'Esso che aveva perso del gasolio, c'erano i pompieri, c'erano 2 pattuglie di polizia, c'erano quelle dall'Alas a buttare il prodotto perché gli autotreni scivolavano dai passeggeri lì. Nulla è quello che devi provare, neanche agli altri. Sì, ciao Paolo, anche a te, buon salvo, ci sentiamo alle prossime, riprendi qua. Adesso dove sei? Ah, capa, capa, io lo E lì quando passiamo un anno, quindi un po' di ciliegie, che ci offrono di ciliegie, che non c'è una gara. Non ti ascoltano, Sentiamo, parliamo siamo sopra e basta, perché succede così. Non l'ascolti, ci parli sopra, tutto lì. Cappa di positivo, va. Va bene. Cosa fai? Ti corichi? Io sono già corricato, già da un momento. Sono corricato, ho la mano accesa, tutto buono. Cosa stavo dicendo? E comunque ha superato, stava di nuovo a superare tutte le altre, perché allora non capisco, sono arrivato in punti dove con gli altri non ci riuscivo. Beh, si è arrivato quasi a amore, davvero, così che si è arrivato dopo la salita di Silico, così che lì subito c'è il pezzo da discesa, c'è amore, cioè non è che sia molto lontano, cioè per essere... Per essere in basso, specialmente io, sono arrivato lontano. Sì, io sono in un fosso lì. Sono in domanda, però non è andato una fossata. Fossata. Kappa, sempre più alto di me, sì. Se in via Maddetta, io sono qui. Le Maddetta nel buco, quasi sotto il ponte. Beh, io dico via Maddetta, ma non è via Maddetta. C'è la zona di Maddetta. Non è la Valletta, non la faccio io. È vicino, ma non è mica. Io dico la zona, non è che dico la mia. Comunque la via mia non è in particolare infossata. Tu ci hai liberato, tu sei più vicino, anche tutto in tuo livello. Beh, diciamo che io sono leggermente più spostato verso la collina. Niente, riesco a passare nel canale, diciamo così. Cioè, tutto aperto davanti, almeno un sacco di là. Ma se vuoi chiamare così, no, io riesco un po' a passare perché, ripeto, c'è tutto il cortone destro qui da una mia parte che costeggia praticamente la 131 e riesco a incanalarmi, mentre che doverlo saltare viene più male, tu sei alla parte opposta rispetto a me, capito? Anche se sei un po' più in alto di me, però sei nascosto praticamente da tutta la montagna, il canale non riesce a meccarlo bene. Sì, palati, davanti, tutto. La gappa. Sì, va bene o male, interessa perché si arriva e si sente. Penso che perderà molto, perché se proprio di questi due bastardoni.